Paradossalmente. Qui, diciamo, la cosa veramente scandalosa, secondo me, è che un'operazione di questo tipo, che è un'operazione assolutamente elementare, cioè una cosa Certo. veramente, siamo Banale. banale, perché prendiamo i dati che ci comunicano le aziende, gli enti pubblici, eccetera, e li incrociamo banalmente con quelli dei contribuenti, quindi facciamo una cosa. In realtà la Guardia di Finanza ha fatto una cosa che l'amministrazione tributaria doveva fare, fiscale, doveva fare da 20 anni, da 30 anni a questa parte. Anche perché è tantissimi anni che l'amministrazione ha gli strumenti informatici, la base dei dati per fare questa cosa. Quindi quello che sorprende è E che non si fosse fatto che prima. non si fosse fatto prima. Quindi io, ecco, non vorrei dire una cosa, come dire, non in linea con il tuo pensiero, però sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore. Cioè, scopriamo l'acqua calda, sì, ma scopriamo l'acqua calda perché purtroppo, evidentemente, anche queste modalità così semplici sono state utilizzate solo parzialmente o evidentemente non in modo completo, non in modo così analitico e dettagliato come invece è stato fatto in questo caso. Probabilmente oggi, se queste cose fossero state fatte in passato, non saremmo qui a parlare tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, dei 120, 130, 150 miliardi di evasione fiscale. Ecco, questo è quello che io penso. Dopodiché è ovvio che bisognerà andare anche a vedere bene dentro queste 400 persone che hanno trovato irregolari, se le dichiarazioni non sono state veramente presentate o se si tratta di errori, se ci sono altre cose. Però, insomma, mi sembra che l'operazione comunque sia importante. Arrivano in ritardo, l'amministrazione arriva in ritardo, si è mossa probabilmente in ritardo, secondo me è importante che qualcosa cominci a muoversi. Ci sono a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, enormi potenzialità di dati da utilizzare, di software da usare per far dialogare le banche dati tra di loro.